Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come sempre venerdì avremo anche oggi la poco invidiabile classifica degli sprechi di denaro pubblico della settimana e poi come sempre il commento sulla borsa. Partiamo da qui e poi nella seconda ora anche le reazioni dei mercati, non solo al voto britannico. Partiamo da qui però perché insomma difficile non fare paralleli tra Theresa May e Cameron. Cameron fece un autogol, a essere bravi, a essere buoni, pazzesco, quando dopo aver ottenuto moltissime garanzie e aperture dall'Unione Europea a febbraio andò a verificare la sua forza con il referendum sulla Brexit e lo perse clamorosamente e a sorpresa, tant'è che si dimise subito dopo, creando un problema alla Gran Bretagna che ancora alcuni sono favorevolissimi, per carità, però possiamo dire a meno che oggettivamente la Gran Bretagna, da quando è entrata nel percorso Brexit, sta conoscendo uno scossone dopo l'altro e ancora non è chiaro quale sarà il percorso scelto dalla Gran Bretagna a distanza ormai di un anno, era maggio dell'anno fa, di un anno fa, per cui non è ancora chiaro che in linea voglia intraprendere la Gran Bretagna. Era il 23 giugno, quindi quasi un anno fa, che linea voglia prendere la Gran Bretagna. Tant'è che oggi, in maniera un po', non dico crudele, ma così, insomma, cinica, Juncker, il Presidente della Commissione Europea, ma anche il capo negoziatore dell'Unione Europea sulla Brexit, si chiama Michel Barnier, hanno detto ambedue: gli esiti del voto non devono rallentare i negoziati sulla Brexit. Ripeto, in maniera un po', se mi passa il termine, carognesca, ma ci sta, perché prendono atto che la May ne è uscita con le ossa abbastanza rotte da queste elezioni, che invece, stante le previsioni quando lei le ha lanciate, dovevano confermare, anzi aumentare, il potere dei conservatori. Non solo ne esce lei ammaccata, ma ne esce con le ossa rotte il leader del UKIP, Paul Nuttall. Non riescono ad entrare nemmeno nel Parlamento, tant'è che lui ha detto che il voto è stato un atto di arroganza di Theresa May, ha messo in pericolo la Brexit. Loro sono il partito leader, diciamo, quello di Farage, a suo tempo per l'uscita dalla Gran Bretagna dalla Brexit, l'uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea, ha detto ha messo in pericolo la Brexit e ha detto siamo rimasti vittima del successo dei laburisti, ma noi siamo l'assicurazione per la Brexit. Ed è arrabbiatissimo, ma la stessa May, quando si vede ridurre di 12 i seggi e si attesta a 318, riuscirà a formare un governo solo grazie ai 10 seggi degli unionisti, gli irlandesi del DUP, ma i laburisti hanno preso 31 seggi e appunto sparisce la UKIP. 31 seggi quando le previsioni dicevano l'esatto opposto, cioè che si sarebbe rafforzato enormemente il partito dei conservatori. Beh, il parallelo è difficile non farlo, ripeto, sia Barnier che Juncker in maniera un po' canagliesca dicono no, ma ha aggiunto Barnier, i negoziati sulla Brexit dovrebbero partire quando il Regno Unito è pronto. Il calendario e la posizione dell'Unione Europea sono chiari. È un pochino di soddisfazione, se la tolgono, come dire, noi siamo pronti. Quando è che siete pronti anche voi a negoziare l'uscita? Visto che eravate così sicuri della bontà della scelta, e insomma fa parte della dialettica politica. Approfittare anche delle difficoltà dell'altro, lo dico, ripeto, al netto di quello di come uno la pensi sull'Unione Europea, la Gran Bretagna meglio o dentro o fuori dell'Unione Europea. I mercati come hanno reagito per quello che riguarda la Gran Bretagna? Bene la borsa, e qui la spiegazione va data, ossia la borsa festeggia un indebolimento di tutto il fronte politico che è più per una Brexit dura, per la cosiddetta hard Brexit, per un'uscita senza se, senza ma, senza arrivare a troppe trattative con Bruxelles, che spaventa molto la City, spaventa molto gli investitori. Infatti Londra guadagna lo 0,90%, allo stesso tempo la sterlina è scesa, adesso è a 0,87 e è scesa fino a 1,26 sul dollaro, un calo del 2%, tra l'altro anche sullo yen è scesa la sterlina britannica. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Se c'è una cosa a cui i mercati finanziari sono abituati è non contare sulle previsioni delle elezioni. E nuovamente è accaduto anche in Inghilterra, dove la vittoria di piccolissimo margine del Partito Conservatore della May hanno dato una reazione così contraddittoria, possiamo dire, ai mercati finanziari. Tutti si aspettavano chissà quale ripercussione della confusione e dell'incertezza creata dal voto. Tutto sommato è andata bene, perché al di là dell'indebolimento della sterlina, che tutto sommato sta nella realtà delle cose fin dal voto di Brexit, la borsa inglese ha festeggiato mettendo a segno il miglior rialzo fra tutte le borse europee. Ma per quale ragione? Non è certamente perché chi vince o chi perde, ma è per i riflessi che ha sulla sterlina questa un po' situazione di incertezza. Una sterlina bassa significa infatti esportazioni più facili per i grandi società, per i grandi gruppi industriali inglesi. Al contrario, tutte le società che operano sul mercato interno ne hanno risentito fortemente. Ed ecco così che la borsa inglese ha preso due direzioni diverse. L'indice FTSE 100, quello che fotografa la performance delle grandi imprese, è andato a rialzo mettendo la migliore performance probabilmente delle ultime settimane, mentre invece l'indice FTSE 250, dove sono comprese anche e soprattutto le società della distribuzione, del commercio, delle grandi catene della retail inglese, beh, lì c'è stata una secca caduta con un rosso abbastanza deciso. Questa è un po' la considerazione di fondo dei mercati: mai puntare sui risultati elettorali con certezza, mai giocare d'anticipo su quello che ormai sembra una confusione elettorale dilagante dall'Italia fino alle parti più estreme dell'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Altre notizie in breve. Dunque, qualcuno mi scrive: ma perché definisce carognesca, cinica? Cosa devono dire? No, l'ho detto in senso benevolo e anche aggiunto: ci sta tutta la reazione di Juncker e di Barnier. Dopo che gli inglesi hanno fatto la faccia feroce, hanno fatto i duri, usciremo, addirittura mettendo in discussione la libera circolazione dei cittadini europei, della Gran Bretagna e quant'altro. Però adesso che si tolgono qualche soddisfazione nel vedere che la May è sempre più impantanata e la Gran Bretagna, ripeto, non ha ancora deciso se fare una Brexit dura in cui non si va a trattare, si dice queste sono le nostre condizioni, arrangiatevi, ma allo stesso tempo non vuole pagare i soldi che deve ancora l'Europa, così, o andare a un atteggiamento più morbido. Penso, almeno la reazione dei mercati è in questo senso, che dopo sta botta, e non so quanto convenga a Theresa May andare a fare muso duro con una maggioranza parlamentare molto molto risicata che si basa solo sui 10 deputati irlandesi. Andiamo all'Italia però. Oggi via libera al decreto Madia sulle partecipate pubbliche. Il Consiglio dei Ministri infatti ha appena approvato il provvedimento correttivo. Si punta a tagliare le cosiddette scatole vuote, cioè le società con le partecipate con microfatturati, o quelle che hanno, sarebbe l'ora, visto che parliamo della classifica oggi, meno dipendenti che amministratori. L'ultima notizia prima di passare alla classifica invece riguarda il reddito di inclusione, perché è arrivato nel Consiglio dei Ministri un primo esame per il decreto legislativo che introduce in Italia una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il Premier Gentiloni ha ricordato che c'è piena sintonia anche con il Presidente Macron, e che questo tema dell'inclusione sociale è Macron, chiaramente francese, è diventato sostanzialmente un tema centrale per l'Unione Europea. Il reddito di inclusione, detto anche lei, è nell'intenzione del governo un sostegno economico progressivo a tutte le famiglie che si dovessero trovare sotto la soglia di povertà assoluta, ossia il reddito ISEE dichiarato 6.000 euro. a partire dai nuclei con i bambini. Si stima che le famiglie che vivono in tale condizione siano 660.000, cioè 1.800.000 individui. E ogni nucleo familiare riceverà mensilmente una somma tra 190 e un massimo di 485 euro. Il provvedimento appunto era all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Il decreto attua la delega approvata a marzo e segue il cosiddetto memorandum d'intesa firmato ad aprile dal premier Gentiloni. Si rivolge appunto a 1.800.000 persone e 400.000 famiglie. A chi me lo chiede, ecco, non c'entra nulla con la proposta invece del reddito di cittadinanza, che è uno dei cardini della proposta dei 5 Stelle, che vuol dire erogare un reddito a tutti i cittadini residenti che hanno un reddito al di sotto della soglia di povertà, e quindi non povertà assoluta, quindi 9.300 euro l'anno, e va a colmare il gap tra quello che manca, con arrivare almeno a 9.300 euro. Il costo è stimato in 15 miliardi, quindi stiamo parlando di due misure molto molto diverse. E perché il costo invece del reddito di inclusione è circa sui 2 miliardi, quindi, insomma, è chiaro che l'impatto è minore del reddito di inclusione, ma anche il costo è minore, onestamente, ma vedremo poi in campagna elettorale. Non ho ancora ben capito dove verrebbero trovati i 15 miliardi per il reddito di cittadinanza, fermo restando che tutto si può trovare. 15 miliardi non è una cifra devastante, va trovata, vale con due terzi di una manovra finanziaria. Il premier Gentiloni dice: abbiamo fatto un primo passo contro l'emergenza povertà, lo dice in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Sin dall'insediamento di questo governo, proseguire l'azione dei governi che si sono succeduti in questa legislatura sul tema della povertà è stata una delle nostre priorità. Il Parlamento ha approvato una legge, noi abbiamo preso impegno a approvare in tempi rapidi il relativo decreto legislativo. Lo abbiamo fatto collaborando con quell'arcipelago di associazioni e di organismi che fa parte dell'Alleanza per la Povertà. Siamo consapevoli che è un primo passo, cioè che è una prima risposta a una esigenza sociale molto rilevante e che gli anni della crisi hanno reso ancora più stringente per il nostro Paese. Quindi, per certi versi, siamo soddisfatti di aver mantenuto un impegno e di aver varato la prima volta uno strumento che punta in modo universale a far fronte al fenomeno della povertà, ma al tempo stesso sappiamo che si tratta di un primo passo che dovrà vederne di ulteriori. E questo è stato anche il senso dell'intesa tra noi e il mondo associativo, sindacale, culturale raccolto dall'Alleanza contro la Povertà. E il ministro Poletti appunto specifica 2 miliardi per il reddito di inclusione nei prossimi anni. Il beneficio appunto va da un minimo di 190 euro a un massimo di 485. Doppia la soglia di accesso, 6.000 euro di reddito ISEE o 3.000 euro di reddito equivalente. Ho detto delle risorse, quindi siamo intorno a 2 miliardi l'anno nei prossimi anni. Il beneficio economico va da un minimo di 190 euro ad un massimo di 485, ma questo è, come posso dire, si parte da un componente e poi si sale 2, 3, 4 componenti del nucleo familiare. È previsto da questo punto di vista una soglia di accesso che è pari al 6.000 euro la soglia ISEE e una seconda soglia che è di 3.000 euro ISEE per il reddito equivalente. Nella prima fase, non avendo una dotazione di risorse sufficienti per raggiungere tutto l'area dei cittadini potenzialmente in questa condizione, la priorità va data ai nuclei con almeno un figlio minorenne, ai nuclei con un figlio con disabilità, anche se maggiorenne, nuclei con una donna in stato di gravidanza, nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione. Le famiglie con queste caratteristiche nelle condizioni economiche del REI sono circa 660.000, di cui 560 con figli minori. Più. La classifica della settimana. Allora, partiamo anche oggi con la classifica della settimana per quello che riguarda il... Ce n'è. Per quello che riguarda il quinto posto, partiamo bassi, però, insomma, sempre di cattive abitudini. In questo caso non c'entra l'amministrazione comunale, c'entrano i cittadini. Siamo a Bari, si sono accorti, grazie a un'inchiesta, devo dire lanciata dall'assessore del patrimonio di Bari, Vincenzo Brandi, e un'inchiesta congiunta che adesso è stata segnalata anche alla Procura della Repubblica di Bari, un'azione coordinata tra Comune di Bari, Arca, che è l'azienda che gestisce gli alloggi popolari, e la Polizia Municipale, si è scoperto che vi erano alcuni alloggi assegnati come case popolari a persone che, pensate un po', in quattro casi risultavano essere proprietari di case e ville dal valore fino a 300.000 euro. In altri due casi erano deceduti, eppure avevano diritto alle case popolari. La scoperta è stata fatta attraverso i mutui bancari accesi per l'acquisto delle nuove case, guardando l'anagrafe patrimoniale e immobiliare, e anche tramite segnalazioni anonime. Praticamente queste case venivano assegnate a persone che o erano ricche o erano morte, quindi diciamo non erano più ricche, ma ci andava dentro qualcun altro, a scapito, come dice giustamente l'assessore, sulla pelle degli altri. L'assessore di Bari, Vincenzo Brandi, dice: non consentiremo a nessuno di produrre profitto sulla pelle degli altri. Appunto, ha segnato il caso anche agli uffici della Procura della Repubblica per comprendere se vi sono i presupposti per ipotizzare un reato di natura penale. Ma è niente rispetto al quarto posto, e poi niente rispetto al terzo, al secondo e al primo. Allora. Quarto posto. Al quarto posto troviamo la Sicilia, ma lo dico col massimo rispetto anche questa volta. Allora, quest'anno viene celebrato, devo dire in tutto il mondo, perché Pirandello, che uno possa pensarne, è uno degli autori più studiati nelle università, oltre che premio Nobel, uno degli scrittori e autori teatrali più studiati e più conosciuti nelle università anche anglosassoni quando si parla dell'Italia. Comunque, Pirandello viene celebrato quest'anno il 150° anniversario della nascita, e per l'occasione ad Agrigento arriverà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Allora giriamo col massimo rispetto al Quirinale questa segnalazione, e cioè com'è possibile che uno dei siti più importanti nella storia e nella vita di Pirandello, e cioè, uno dice, cosa c'è? La miniera Tacciacaci è quella miniera, infatti, che a seguito di un allagamento e una conseguente frana venne distrutta e mandò in rovina la famiglia di Pirandello, che non poterono più onorare il contratto di fornitura con la Anglo-Sicilian Sulphur Company, e tra l'altro portò ad acuire i problemi mentali della moglie di Pirandello, Maria Antonietta Portulano, in quei giorni di veglia alla consorte, che dava segni, diciamo, di instabilità psichica fortissima. Pirandello scrisse Il fu Mattia Pascal, uno, insomma, dei capolavori italiani e mondiali, e in questo paesaggio tra le zolfare, la campagna, perfetto, quello che è considerato un luogo storico della vita di Pirandello, tant'è che la miniera Tacciacaci è stata inserita nel parco minerario di Aragona. Lì si è speso 1 milione di euro per renderla il luogo visitabile ai turisti quando si va a vedere la Sicilia di Pirandello, le lumie di Sicilia. Ebbene, i lavori di restaurazione della miniera, appartenuta appunto alla famiglia, per farne un'attrazione turistico-culturale, sono cominciate nei primi anni 2000 grazie ai soldi europei. Quello che oggi ognuno si trova davanti, se si va nella contrada Mintini, è uno scempio e uno schifo vero e proprio. Altro che i 150 anni, la cultura. Poi ogni volta raccontiamo come la Regione Sicilia distribuisca pioggia per qualunque manifestazione di qualunque santa. Allora, porte divelte, fili di rame rubati, cartelle segnaletiche bruciate da un incendio che ha anche danneggiato il tetto della residenza della famiglia Pirandello. Nonostante appunto i lavori, tra l'altro, andarono a buon fine, vi fu il collaudo e poi, come spesso avviene in questa rubrica quando raccontiamo di questi casi, dopo il collaudo si ferma tutto. Perché manca, io per questo che me la prendo con gli amministratori, non solo per i furti, per la incapacità, arrivo a dire una bestialità, per cui uno potrebbe anche essere beccato, diciamo, ma almeno fai le cose, concludi le opere, utilizza i bandi, predisponi i bandi seri e non che ti vengano bocciati dall'Unione Europea e non solo per usare i soldi alla cavolo di cane. Insomma, non sono riusciti, dopo che con questo milione l'avevano restaurata e rimessa a posto, ad avere un progetto. E questa è la vera insipienza degli amministratori che finiscono nella nostra classifica sud, centro o nord del paese. Sono degli incapaci. In alcuni casi sono anche dei ladri accusati dalla procura, ma la maggior parte dei casi sono incapaci. Tra le due non so qual è peggio quando gestisci denaro pubblico, perché tu puoi anche non aver toccato un euro di questo milione, ma il problema è che dopo che ti consegnano un luogo che diventa, in qualunque paese del mondo diventerebbe l'attrazione, chiunque ha detto Pirandello, non riescono a fare un progetto che porti i turisti a visitare quel luogo. Adesso viene utilizzato come riparo dai pastori che hanno le pecore e usano quella miniera come riparo per le pecore. Presidente Sergio Mattarella, visto che lei è di quella regione, lo faccio notare quando voglio. Non è possibile questa cosa. Non è possibile, ripeto, non c'è nemmeno un problema di furto, di tangenti, di soldi mai arrivati. I soldi sono arrivati, l'opera è stata finita, il parco è stato inaugurato, appunto la miniera storica della famiglia Pirandello è lì, un milione di euro, ci sono le pecore dentro perché non hanno predisposto un progetto per portare lì dei turisti e poi tutto il resto è stato rubato, divelto, bruciato. E stiamo parlando di una cosa fatta praticamente 12 anni fa, neanche, finita 12 anni fa. Vabbè, andiamo al terzo posto, dove saliamo a Pescia, in provincia di Pistoia. Allora, l'hanno beccato, o meglio l'accusa è questa, lui si chiama Oreste Giurlani, sindaco PD di Pescia, provincia di Pistoia, ma è sotto accusa... È stato arrestato, per essere precisi, per il periodo in cui ha ricoperto la carica di presidente di UNCEM Toscana. Che è l'UNCEM Toscana? Unione Nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti Montani. Allora, lui era bravissimo coi soldi degli altri, l'hanno arrestato, perché il denaro usciva tutto dalle casse della UNCEM, i soldi alla UNCEM vengono stanziati... dalla regione toscana. Le casse dell'UNCEM sono già disastrate, visto che a bilancio nel 2016 ha segnalato perdite per 2 milioni e 400 mila euro. Le accuse per cui il PM fiorentino Tommaso Coletta ha chiesto e ottenuto dal GIP Anna Liguori del Tribunale di Firenze l'arresto ai domiciliari per Giurlani, eseguito una settimana fa dai finanziari del Comando Provinciale di Firenze, sono le seguenti. Il sindaco è indagato per peculato, che vorrebbe dire appropriazione indebita commessa da pubblici ufficiali, perché secondo le indagini dei finanzieri del gruppo Tutela Spesa Pubblica Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze, si sarebbe appropriato indebitamente del denaro dell'UNCEM. In che formule? Allora, qui c'è di tutto. Trasferendo dal conto corrente dell'associazione, di cui aveva disponibilità diretta anche tramite il home banking, vedi che è importante la cultura finanziaria, questo con l'home banking fregava i soldi dall'istituto, sul proprio conto personale, e c'è una prima botta di 570.000 euro, okay, che ha trasferito via home banking dai soldi dell'associazione a se stesso. Poi si è autoliquidato oltre 200.000 euro senza produrre alcun giustificativo di spesa. Almeno mettici qualcosa, no? Mettici cena con gli amici, cena con, non so, con le comunità montane. Altri 233.000 euro creando ad arte giustificazioni fittizie e contabili ideologicamente false e soprattutto non pertinenti alla funzione pubblica svolta in 5 anni, tra 2012 e 2016. Ma non basta, perché tra 2012 e 2016 sempre lo stesso Giurlani avrebbe ricevuto anche compensi per consulenze private effettuate a favore dell'UNCEM, di cui era presidente. Guarda, è bellissimo. Siamo sempre con questa consulenza, il nuovo modo per la tangente, si chiama consulenza. Consulenze private a favore dell'UNCEM per oltre 140.000 euro su incarichi autoconferiti. questo faceva, disfava. Una domanda, però, tutti gli associati dell'UNCEM, cioè i comuni, le comunità, gli enti montani toscani, ma non si accorgevano che questo faceva, non so, un bilancio c'era? Ma è arrivato a mettere nei conti anche cappotti da 800 euro l'uno. L'uno, scusatemi, uno e lui, uno era il cappotto, l'uno, cavolo, cioè 800 euro l'uno farà freddo a Pescia, iPad di ultima generazione, una sfilza di cellulari, buoni carburante, questa è bellissima, lui si faceva pagare buoni carburante per 500 km al giorno. Oh, che cavolo, ma stai a Pescia, a Pistoia, ma dove andavi? Facevi il giro dell'Appennino Tosco Emiliano ogni volta, ho capito la comunità montana, ma cavolo, 500 km al giorno di media, comprese domeniche festivi. Ma voi ci rendiamo conto della famiglia di Oreste Giurlani? Non lo vedevano mai, questo era sempre in giro, 500 km al giorno, sabato, domenica, lunedì, martedì, che piova, che siano i morti, che sia Ferragosto, non c'è, che sia il suo compleanno, che sia il compleanno della moglie, niente, questo era sempre in giro, 500, esausto, con il cappotto da 800 euro sopra, gli iPad, i cellulari. Vabbè, vediamo, intanto agli arresti domiciliari, e intanto noi andiamo sul metro, la pubblicità, e poi andiamo alle vette, secondo e primo posto. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui social network, la pubblicità digitale, le nuove app e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, secondo posto, vedo che stanno arrivando. Madrid, perché mi scrivono gli ascoltatori sul sindaco di Pescia che diceva di fare rimborsi per 500 km al giorno, cappotti di 800 euro all'uno e dagliela costo uno. Mi scrive un ascoltatore, avvistato squilibrato a Ferragosto col cappotto compilando rimborsi e spese con l'iPad mentre gira per l'Appennino Tosco Emiliano per 8 ore al giorno. Buttiamola a ridere, perché questo. Altri sono meno teneri, diciamo, con il sindaco di Pescia agli arresti domiciliari. Mandiamo, in effetti, immaginarlo: 500 km al giorno di rimborsi e spese col cappotto, con l'iPad e i telefonini mentre gira, non se ne abbia il sindaco Oreste Giurlani, e più che altro pensi a difendersi a questo punto. Andiamo al secondo posto. Allora, qualcuno ricorderà, spero, la denuncia che abbiamo compiuto sulle gli acquisti e le forniture di giubbotti antiproiettile alla Polizia di Stato che non reggono alle pallottole e alle lame, è una schifo anche lì, 800.000 euro IVA esclusa, 610 euro l'uno, al collaudo si sono accorti che non reggevano alle prove tecniche antilame e antiproiettile, i sottocamicia non hanno superato 3 test su 3, perché vengono utilizzate nella produzione post-gara, ma pensate un po', vogliono fregare anche la Polizia di Stato. Prima gli danno un modello, poi quando lo producono il modello è diverso, vengono utilizzati i materiali più scadenti. Perché lo dico? Perché alcuni fanno notare che questo è anche frutto di una gara al massimo ribasso. In realtà c'è qualcuno che fa il furbo e ruba. Tra l'altro c'è anche una gara per 12.000 caschi protettivi con l'opzione di altri 14.000 per 8 milioni di euro. Tra l'altro solo una ditta li produceva come gli hanno chiesti. Il problema è che sono resistenti al fuoco ma non ignifughi. Per cui se viene lanciata una Molotov, caso rarissimo, quando fai ordine pubblico, il rischio è che si fondano causando ustioni alla gente. Ma perché lo diciamo? Perché mentre si va alle gare, spero che sia solo un problema di ribasso e non anche di collusi dentro in chi fa la gara rispetto a chi partecipa alla gara, qui non abbiamo nessun elemento per dirlo, però voglio dire una cosa, com'è possibile aver speso 20 milioni di euro per la scuola di polizia a cavallo, che è costata 15 milioni di euro per farla e oltre 1 milione di euro l'anno per mantenerla tra bollette e manutenzione personale. Questi costi della scuola di polizia a cavallo, istituita nel 2009 a Foresta Burgos, provincia di Sassari, la si vuole chiudere. La storia è pazzesca. Allora, praticamente inaugurata il 7 marzo 2011, è stata poco utilizzata. In che senso? La scuola per la polizia a cavallo sorge su 24 ettari di terreno in una zona naturalistica della Sardegna. Hanno speso 15 milioni di euro dei fondi strutturali europei PON per costruirla. Sin da subito è stata concessa dalla regione l'area a titolo gratuito per 30 anni al Ministero dell'Interno. Nell'idea originale l'investimento serviva per coprire le esigenze interforze sul territorio, cioè doveva fare da scuola con corsi trimestrali di perfezionamento sia per gli appartenenti alla forestale che alla polizia che alla guardia di finanza, tutti quelli che avevano la qualifica di cavaliere, non cavaliere del lavoro, cavaliere vero. E ci mancherebbe, fare la scuola di polizia a cavallo dovrei mandarci i cavalieri, no? Non è che ci mandi il reparto mobile o la Digos. Allora, il primo corso si è tenuto nel 2010-2011, dall'anno successivo però nascono i problemi. Problemi molto semplici: mancano le persone. Dopo un primo momento la scuola viene aperta anche a gradi diversi, ossia ispettori, sovrintendenti, agenti, tutti quelli che volevano partecipare al corso, diciamo, trimestrale, appunto di formazione per la polizia a cavallo, per cavallerizzi nella polizia. Nonostante questo, nonostante venga aperta anche ispettori, sovrintendenti e agenti, i partecipanti continuano a calare. Due motivi: uno, temporale: se tu facevi questi 3 mesi di corso dovevi abbandonare il tuo posto, e molti o non hanno avuto l'autorizzazione o sappiamo qual è il problema anche dell'organico della polizia, non potevano andare. E poi la diaria molto bassa, e quindi non ti conveniva. Dopodiché, nemmeno dopo che la riforma di Renzi ha accorpato i forestali all'arma, i forestali di Stato, non quelli regionali, non i famosi forestali calabresi, quelli di Stato, all'arma dei carabinieri, che una scuola di formazione già ce l'hanno, cioè i carabinieri che hanno da sempre lo squadrone a cavallo famosissimo, hanno una loro scuola di formazione, non usano quella della polizia di Stato. E nell'ultimo, nemmeno questo è servito, perché questi vanno alla scuola di formazione dei carabinieri. Nell'ultimo corso, il 12esimo, si contavano, sapete quanti frequentanti per una scuola che ha sorge su 24 ettari di terreno, costata 15 milioni più 1 milione di euro l'anno di mantenimento? Erano 8 da soli, Lonely Star, come dicono gli americani, stella solitaria, cavalcavano soli in 24 ettari, 8 in tutto. 1 milione l'anno, ma con 1 milione di euro l'anno di mantenimento, questi 8, cioè, ci risparmiavi pure, glieli facevi a domicilio, gli portavi il cavallo e li facevi cavalcare sotto casa. 1 milione di euro l'anno, manutenzione, i soldi vengono pagati tra il Ministero dell'Interno e anche la Regione Sardegna, manutenzione, bollette e personale. Ci sono 45 impiegati, ne sono rimasti 30, e 11 cavalli, ci sono 8 cavallerizzi, 11 cavalli con 3 cavalli in crisi di identità che non sanno chi cavolo li deve cavalcare, e 30 impiegati, una media di, diciamo, 3 impiegati ogni cavallerizzo. Ma questa, cioè, è Harvard, non è la scuola, è West Point, è il 7° cavalleggiare di Custer. Allora, che sia stato un inizio, che non sia stato un inizio glorioso, lo scrive anche il Ministero dell'Interno nella nota mandata ai sindacati in cui annuncia la chiusura della scuola. Fin dall'istituzione si erano profilate difficoltà per l'arma dei carabinieri e la finanza ad inviare frequentatori ai corsi. I carabinieri ce l'hanno già loro. C'è qualcuno che è contrario, il consigliere regionale Daniele Secondo Cocco. Si tratta di un ulteriore arretramento dello Stato rispetto alle gravissime emergenze sociali presenti nel nostro territorio, però c'è qualcun altro che denuncia gli sprechi, come il segretario del sindacato Polizia Nuova Forza Democratica Filippo Bertolami. Io voglio dire a Cocco: sì, ma lo sviluppo in Sardegna non possiamo farlo mantenendo 30 persone, erano 45 inizialmente, con 1 milione di euro in bolletta ogni mese per 8 cavallerizzi scarsi. Si fa su cose serie, non si fa, si fa sul turismo, si fa, lo dico visto che lei siede alla regione, con una regione Sardegna che per esempio inizia a prendere i grandi operatori, tour operator della Sardegna, ne abbiamo parlato molte volte, e li mette attorno a un tavolo e chiede anche a loro che cosa serve. Ma lo sapete che si sono organizzati, lo abbiamo raccontato negli anni scorsi, addirittura i charter si ripagano i grandi operatori da Mosca per la Sardegna? Ce lo raccontavano quelli di Accor, quelli del Forte Village, perché con la regione Sardegna non si pensa neanche a trovare un tavolo tecnico sull'aeroporto di Cagliari. Magari un Cagliari-Mosca, un Cagliari-San Pietroburgo è molto più utile che un Cagliari-qualcos'altro, è molto più utile che 11 cavalli, di cui 3 in crisi d'identità, 8 cavalieri solitari e 30 dipendenti che si guardano, capito, i cavalli. Dai, traffico. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Focus Economia. Andiamo al primo posto della classifica. Stavamo per metterci appunto la squadra di cavallo della polizia a cavallo. Ma io dico una cosa, ma visto che appunto mancano le volanti, i giubbotti antiproiettili, ma non si poteva, io, questo vizio italiano, non si poteva utilizzare la scuola? Abbiamo uno squadrone di cavalleria dei carabinieri, quello che fa la famosa, diciamo, carica dei carabinieri a Roma ogni anno, mi stanno segnalando una cosa, sì, adesso arrivo, ma dicevo, abbiamo... una scuola dei carabinieri a cavallo, utilizzano quella lì come fa l'esercito tante volte con programmi interforze in cui fa usare alcune strutture ad altri corpi. Insomma, ma perché crearne un'apposita in Sardegna tre mesi l'anno? Ma dai, comunque, sì, vabbè, dai, ho già capito, mandate. Ho capito, eh. Ho capito. Furia Cavallo del West. Va benissimo così. Andiamo al primo posto con il vincitore. Il vincitore di questa settimana. And the winner is. La nuvola di Fuxas. Però, siccome ce l'ho con Fuxas, però adesso. Ma sta. Non... ci siamo già occupati del problema dei 2 metri rubati alla strada, un casotto è venuto fuori. Adesso viene fuori, ma ne parliamo dopo il GR24, che si rischia di costare il doppio, cioè c'è il costo per ora 202 milioni, l'importo da parte 220 milioni, ma rischia di esserci per una causa avanzata dal costruttore condotte verso un'azione... verso la società per azioni pubblica EUR da 202 milioni, rischia di lievitare il tutto a 407. Per ora è già costata invece che 220, 353 milioni, ma c'è una causa da altri 54 milioni che condotte ha fatto contro la società per azioni pubblica EUR che controlla la nuvola. È la nuvola più cara del mondo, altro che eterea, leggera, qua è imbottitissima. Ne parliamo dopo il GR24, poi facciamo la borsa e le reazioni al voto inglese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Dal 12 giugno il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 su Radio 24 e su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Guardavo la sedia. Cosa c'è? No, si capisce che è una sedia. Beh, sì, fortunatamente è una sedia. Non è di design. In che senso, scusi? capisco. Non so se si capisce che questa è una sedia. No, no. Così? No. Così? No. Così? No. Questo è design. Cioè? Vabbè. Se si capisce è una sedia. Se non si capisce? Design. Oh, allora, non se la prende l'architetto Fuxas, ma insomma con questa nuvola di nuovo in diretta 18.08 per l'ultimo posto della classifica, il primo posto della classifica, questa nuvola è più che una nuvola, è un colabrodo. Allora, doveva costare 220 milioni, è già costata 353 milioni, abbiamo poi scoperto, abbiamo raccontato che ci saranno spese legali e somme necessarie per risolvere quel problemuccio di due metri in cui la nuvola entra sul marciapiede e ruba spazio al marciapiede, non si sa come cavolo fare. Ma c'è dell'altro, perché la società per azioni pubblica EUR, controllata al 90% dal Ministero del Tesoro e al 10% dal Comune di Roma, potrebbe essere costretta a pagare al costruttore Condotte altri 54 milioni. E quindi portare il costo complessivo della nuvola da 220 è già passata a 353, ma adesso a 407 milioni. E devo dire che questa volta il sindaco Virginia Raggi lo aveva detto durante la cerimonia di inaugurazione in diretta televisiva 7 mesi fa, no? I costi dell'intera operazione aggiudicati in maniera molto molto critica dal sindaco Raggi. Allora, che cosa è successo? La Condotte ha innescato un contenzioso legale con il committente appunto Euro SPA, avanzando riserve per 202 milioni. Il contenzioso finisce davanti al giudice perché la società Euro SPA ha deciso di evitare l'arbitrato. Una cifra enorme che vale quasi l'intero appalto iniziale, 220 milioni, tra che si è aggiudicato la Condotte con un ribasso da molti definito temerario di ben 50 milioni. Poi sono rientrati però in parte con qualche variante e un accordo bonario per chiudere certe pendenze. Totale comunque 260 milioni, perché era 220, poi 50 sono rientrati. Allora, sommati questi al costo delle opere complementari, alle spese di progettazione e oneri vari, si è arrivati altri 353 milioni, che rischiano di diventare 407 perché, nonostante i 18 anni impiegati per arrivare al varo, al parto della nuvola, tra l'altro ricordo che era già successo di tutto in questi 18 anni. L'autorità di vigilanza che ha bloccato un collaudo da 1.200.000 euro, già per metà destinato all'ex provveditore delle opere pubbliche Angelo Balducci, quello protagonista in seguito allo scandalo degli appalti della cosiddetta cricca dei grandi eventi affidata all'ex protezione civile, la vicenda Bertolaso. 54 milioni è la stima contenuta nella consulenza tecnica del Tribunale Civile di Roma, che deve mettere la sentenza sulla causa intentata da Condotte. Le pretese di Condotte erano ben più alte, appunto arrivavano a 200 milioni. Quali sono le contestazioni della società Condotte? Una finanziaria, cioè gli interessi che l'impresa ha dovuto sostenere anche a causa dei ritardi che l'opera ha subito. Una seconda riguarda la burocrazia, perché i ritardi sono imputabili al lasso di tempo inconcepibile. Sapete quando ci ha messo l'allora il Comune di Roma, non della Raggi in questo caso, non la sindaco Raggi, quanto ci ha messo per dare il permesso alla società Euro SPA di andare avanti, di cui è anche azionista con il 10%? 3 anni. 3 anni pagati 9 milioni e mezzo. E poi una terza, squisitamente tecnica, i presunti problemi legati alla progettazione. In tutto il tribunale dice potrebbe chiedere 54 milioni. La consulenza tecnica del tribunale è questa. Un applauso alla nuvola più incasinata, più pesante, più costosa, più, non lo so, meno leggera, che è uno simbolo per una nuvola non essere leggera. Abbiamo inventato le nuvole pesanti. Un applauso, un applauso. Sì, tra l'altro mi ha scritto un maresciallo dei carabinieri in merito alla scuola di cavallo della polizia costata 20 milioni e adesso la chiudono. A Roma abbiamo il 4 reggimento carabinieri a cavallo, non è usato come scuola, ma si svolgono esami per conseguire il brevetto di carabinieri a cavallo per i carabinieri dei vari ruoli e gradi che sanno già andare a cavallo. Inoltre vengono a cercare nuovo personale in caso di necessità durante lo svolgimento dei corsi per allievi carabinieri, quindi si può tranquillamente usare a livello interforze la scuola, o meglio, insomma, le strutture del 4 reggimento carabinieri a cavallo. E poi c'è lo squadrone dei carabinieri, quello che fa a Piazza di Siena, la bellissima carica dei carabinieri, bellissima per chi l'ha vista. Comunque andiamo sul caso Virtuoso, non ce la faccio più nemmeno oggi, e poi passiamo alle relazioni dalla Brexit. Caso Virtuoso, che oggi si chiama Neutrino, la società fondata da Giancarlo Russo. Buonasera. Buonasera. Che cosa fa Neutrino? Non Neutrino. È Neurino, Neutrino. Neutrino, no, Neurino è quello che è la prima parte della classifica. Prego. No, allora, Neutrino è una startup innovativa che si occupa di Bitcoin Intelligence. Di Bitcoin Intelligence? Esattamente, sì. Noi cerchiamo di fornire a tutti gli operatori che hanno a che fare con le criptovalute, in particolare con Bitcoin, di analizzare e raccogliere informazioni disponibili sia sul web clear sia dark web, affinché possano valutare il rischio delle operazioni e delle controparti con cui hanno a che fare, per poter implementare quindi politiche di antiriciclaggio e di affidabilità delle controparti. Cioè voi cosa andate a vedere, che cosa, sul Bitcoin, sulle criptovalute, le transazioni? Esatto, facciamo un'analisi partendo dalle transazioni che sono pubbliche per definizione sulla blockchain, cerchiamo di correlare i dati, raccogliere da altre fonti informazioni che possano dare maggiore valore a quello che è pubblico sulla blockchain, per poter dire se quel soggetto è più o meno affidabile in base agli altri soggetti con cui ha avuto a che fare e con cui ha interagito. Mi scusi, da questo punto di vista chi dovrebbe utilizzare questa Neutrino? Non ho capito, è una piattaforma? Neutrino è il nome della società, sì. La tecnologia in realtà si chiama PFlow, ma Neutrino è il nome dell'azienda che non è collegato direttamente. Ma voi cosa vendete e chi è il vostro interlocutore? Una banca dati, di fatto, un servizio su una serie di informazioni. Gli utenti di queste informazioni sono di due tipologie. Il primo sono le forze dell'ordine che hanno interesse a seguire il flusso finanziario collegato ad attività criminali che vengono regolate con valute virtuali, come ad esempio il WannaCry di cui recentemente si è parlato, il ransomware, oppure tutte le altre società che oggi sono definite cosiddetti cambi valute virtuali, quelle che permettono di acquistare e vendere criptovalute, che a breve saranno oggetto di estensione della normativa antiriciclaggio, perché verranno inclusi nella quarta direttiva antiriciclaggio europea, che appunto prevede l'estensione anche a questi soggetti dei controlli in materia di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette. Quanti siete? Quanto fatturate? Dove andate? No, quello era un fiorino. Quanti siete? Quanto fatturate? Quanto fatturate e l'obiettivo? Allora, speriamo più di un fiorino. No, siamo nati un anno fa, come dicevo, al momento siamo in 5 persone. Quest'anno, che è il primo anno di operatività, perché la piattaforma è stata completata a fine 2016, pensiamo di fatturare qualche centinaia di migliaia di euro. L'obiettivo è superare il milione di euro il prossimo anno, nel 2018, quindi a fine 2018, e dal 2018 in poi c'è tutto anche un piano di espansione internazionale che dovrebbe portarci a crescere ulteriormente anche in termini di risorse, ad arrivare fino a 10-12 persone da impiegare nel giro di 2 anni. Mi scusi, chi vi ha dato i soldi? Quindi siete 5, età media di questi 5 è anche la sua a questo punto? La mia è 36 anni, i miei due soci fondatori l'abbiamo fondata in 3, abbiamo tutti la stessa età, 36-37 anni. Cosa facevate prima? Lavoravamo nel campo della sicurezza informatica. Ok. E ci siamo autofinanziati fino all'anno scorso, poi il mese scorso abbiamo raccolto un primo finanziamento di seed capital da un fondo di venture che si chiama 360 Capital Partner. E quanto vi ha dato? E questo momento non è stato reso pubblico, quindi non posso confermarlo. Allora, senta, il fatturato, diceva, quest'anno, l'obiettivo di quant'è per l'anno prossimo? Quest'anno saranno poche centinaia di migliaia di euro, ci aspettiamo di fare 200-300 mila euro, e per l'anno prossimo di superare il milione di euro. E loro sull'organico, sui dipendenti, l'obiettivo qual è? Quest'anno siamo a 5 ore, sì. Pensiamo di chiudere a 7 per fine anno, e l'anno prossimo superare le 12 persone full time. Oh, in bocca al lupo, anche sia per l'età, per essere messi in gioco, che il profilo che noi cerchiamo è questo, quindi, e nella speranza che passiate da 5 a 12 persone, grazie anche a Giancarlo Russo, fondatore appunto di Neutrino. Grazie, arrivederci. Adesso il traffico, la borsa e soprattutto la borsa oggi significa reazioni dopo il voto inglese che ha indebolito notevolmente i conservatori di Theresa May. Milano ha chiuso comunque più 0,40%, Parigi più 0,70%, Francoforte più 0,80%, Londra la migliore più 1%, mentre si è indebolita parecchio la sterlina. 349-238-6666 per sms e whatsapp. E poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è anche in diretta su Facebook, diretta video. Mi scrive un ascoltatore, magari non se ne rende conto, ma la trasmissione del venerdì sta diventando la più inutile perché noiosa, la più inutile della settimana perché noiosa a scapito di altri argomenti. Eh sì, io me ne rendo conto, forse, forse no, però lei mi dica che lavoro fa, se definisce gli sprechi noiosi, poi ci capiamo. Traffico. Focus Economia. All elections are important, not only in so-called big member states. Tutte le elezioni sono importanti, non solo quelle che si tengono negli stati più grandi. Tuttavia, quelle di ieri erano particolarmente importanti. Spero fortemente che la Gran Bretagna rimanga pronta ad avviare i negoziati. Per quanto riguarda la Commissione, siamo pronti ad avviare le trattative domattina alle 9.30 e siamo pronti ad accogliere gli inviati di Londra. Mi auguro che non avremo a che fare con ulteriori ritardi nella conclusione di questi negoziati. Dovremo prima definire le modalità e i termini della separazione e poi disegnare l'architettura delle nostre future relazioni. Mi auguro che il risultato delle elezioni non abbia impatti significativi su negoziazioni di cui abbiamo assolutamente bisogno. Impact on the negotiations we are desperately waiting for. Così io l'ho definito perfido, insomma, il Presidente della Commissione Europea Juncker, dopo la botta che ha preso Theresa May, che ha voluto andare a sorpresa elezioni, ricordo molto quanto il boomerang di Cameron, per convinta, visti i sondaggi, di aumentare il distacco con i laburisti, è successo l'esatto opposto. Il governo che la May riuscirà a creare reggerà solo per i 10 deputati irlandesi. E Corbyn e quindi tutti il mondo Labour si sono notevolmente rafforzati e devo dire era maliziosa, essere buoni, la frase di Juncker che dice noi siamo pronti anche domani, e adesso la Gran Bretagna che ci deve dire, va tutta questa fretta, che tipo di Brexit vuole adottare, sapendo che va, diciamo, a agitare il coltello sulla ferita di quanto è successo. Laburisti più 31 seggi, conservatori perdono 12 seggi e soprattutto la UKIP va a 0 seggi, non entra in Parlamento, con grande rabbia anche del suo leader, visto che loro hanno fatto la campagna per uscire dall'Europa. Se ne è parlato molto oggi anche a Rapallo per la prima giornata dei lavori della due giorni dei giovani imprenditori di Confindustria. Si è parlato molto anche della reazione dei mercati. Oggi i mercati hanno reagito in borsa. Londra è cresciuta perché questo indebolisce una hard Brexit, un'uscita dura e pura della Gran Bretagna. La sterlina si è molto penalizzata. A Milano Brembo più 2,20, Campari più 2,20, scusate, Brembo meno 2,20, Campari meno 2,20, Italgas meno 2, IUX Santaporte meno 1, Enel meno 0,90, bene UbiBanca più 3,5 come Case New Holland, Banco BPM più 2,70, Tenaris più 1,90, l'1,5 guadagna Poste Italiane e Banca Generali, Exor più 1,30, Buzzi Unicem più 1,20%. C'è una delle nostre due inviate. Non sono contento per i conservatori, non me ne frega niente, io non voto in Gran Bretagna, sto solo dando conto di quello che è successo, che Theresa May abbia fatto una cavolata dal punto di vista suo elettorale, ma non lo dico mica io, glielo stanno dicendo tutti, Allora, c'è la nostra Teresa Trillocchi, assieme alla nostra Anna Marino, sono inviate a Rapallo. Teresa, buonasera. Buonasera a te. Allora, si è discusso molto oggi delle ricadute del voto britannico, anche perché era presente l'ex commissario, attualmente presidente del Parlamento europeo, Tajani. Sì, esattamente. Oggi, questa mattina, è arrivato qui a Rapallo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e lui sostiene che per poter negoziare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea c'è bisogno di un governo stabile con cui discutere. Ma sentiamo che cosa dice. Abbiamo bisogno di un interlocutore stabile. Fra qualche giorno si avvieranno le negoziazioni ufficiali sull'uscita del Regno Unito. Abbiamo bisogno di avere un governo che non sia preoccupato di andare a cercare voti, e quindi un governo che non abbia le elezioni di fronte a sé. Noi abbiamo il dovere di tutelare gli interessi dell'Unione Europea, a cominciare dagli interessi di 3 milioni di cittadini europei, dei quali 500.000 sono italiani, che vivono nel Regno Unito. Per il Parlamento Europeo questa rappresenta una priorità. Non voteremo a favore dell'accordo qualora non ci fosse una tutela di queste 3 milioni di persone. Quindi vogliamo trattare con un governo stabile. Quindi se ci sarà un governo stabile noi saremo contenti. E si è parlato anche delle elezioni in Gran Bretagna che non spaventano le borse qui a Rapallo. C'era infatti l'amministratore delegato di Borsa Italiana e lui, Raffaele Ierusalmi, che al microfono di Anna Marino ha spiegato che il vero impatto dell'instabilità si capirà nel lungo periodo. Però appunto è difficile leggere le reazioni a caldo delle borse. Sentiamo che cosa dice. I mercati reagiscono molto sulla base anche del posizionamento degli investitori e di chi opera sui mercati, e quindi è molto difficile leggere le reazioni dei mercati. Lo è stato per quanto riguarda la Brexit, lo è stato per quanto riguarda l'elezione di Trump, lo è stato per quanto riguarda l'elezione di Macron, lo è stato anche nel caso del referendum italiano. I mercati hanno delle reazioni che molte volte non sono in linea con, diciamo, quello che è la scontata conseguenza che chi guarda i mercati si potrebbe aspettare. E insomma, tutta la giornata ne ringrazia Teresa Trillò con le elezioni britanniche. Domani invece sarà la volta anche della politica. Vorrei far sentire un'altra voce che avete preso, Teresa, e riguarda l'ultima che faccio sentire, il giudizio di Rossi, il nostro ospite ieri, neopresidente dei Giovani Imprenditori. Visto che domani interverrà, oggi Berlusconi ha dato forfè, ma domani vi sarà anche Casaleggio, e Rossi, nel dire attenzione, la manovra non può essere feudo, una manovra per i voti, in un feudo elettorale, la legge di bilancio è cruciale, occorre continuare a rafforzare le riforme, Rossi ha anche spiegato perché hanno invitato, mi sembra assolutamente corretto che lo inviti, no? Visto che sono tre i grandi forze politiche, come vediamo, PD, Forza Italia e 5 Stelle, perché hanno invitato Casaleggio. Come ceto dirigente ad ogni livello dobbiamo ricercare un dialogo con chi ha un grande sostegno popolare, discutere, incontrarci, creare un rapporto con quelle forze politiche che forse sì, ancora oggi non ci conoscono o ci conoscono poco, ma che hanno bisogno che si racconti loro cosa significa fare impresa, cosa significa fare impresa in Italia, creare lavoro in un paese difficile e come farlo al meglio. Tutto ciò non può che essere un servizio per l'Italia, perché chiunque le urne premieranno non può perseguire l'interesse generale se non conosce e comprende le esigenze di chi fa impresa, le esigenze di tutti noi, se non sa trovare una sintesi e un equilibrio. Per questo chiunque ha l'ambizione che l'Italia da oggi diventi leader in Europa, beh, ci avrà al suo fianco. Io devo dire che è quasi strano che uno debba spiegare perché invita Casaleggio e 5 Stelle. Sono una forza politica, ha ragione Rossi nel dire noi dobbiamo illustrare a tutte le forze politiche che si candidano a governare quelle che sono le esigenze di chi fa impresa, e a maggior ragione se è giovane, in questo paese. Ma qual è il problema? Nel ringraziare di nuovo Teresa Trillò e Anna Marino, domani risentiremo altri loro interventi nel corso del GR24. Ringrazio come sempre venerdì anche Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in studio e in redazione. A tutti voi l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.